The Long Journey, il sito internet di approfondimento culturale dedicato alla musica folk americana. Migliaia di articoli, interviste, biografie e recensioni a cura dei maggiori esperti e con la collaborazione di numerose riviste nazionali ed estere. Digita www.bcmai.it. Ti apparirà The Long Journey, il più completo sito italiano di musica roots. www.bcmai.it. But you call me, it's alright. If you want some good squeezing, yeah. But you call me, it's all you got to do now. No, calma, fermi tutti. Ma questa non è quella famosa canzone soul degli anni 60, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9? Sì, è lei che ci fa questa canzone in Country Skyline. Cioè, voglio dire, tutti quanti noi amiamo spassionatamente la musica soul, ma in questo momento che ci fa questa canzone? Ve lo dico io che ci fa. Questo è una canzone cantata da tal John Cowan. John Cowan è un cantante strepitoso che ha fatto parte per molti anni della band dei Newgrass Revival di Sam Bush, che sciolta la band dei Newgrass Revival è andato a fare rock, ma anche prima che si sciogliesse si metteva a incidere del sano rock and roll e della sana soul music. Ma è tornato nella casa, come dire, home is where the heart is, ed ha ripreso a suonare musica acustica, ma con il taglio decisamente aggressivo, adrenalinico, decisamente rock che lo contraddistingue. Questo disco che vado a presentarvi è il suo ultimo prodotto, un disco che ancora nessuno ha potuto ascoltare in Italia. Eccolo qui. Tattoo. Lord, I'd like to have one too. One that's hidden just out of view. A rose or nothing but blue. Corner's got a cool tattoo. Lord, I'd like to have one too. Well, a little Gaelic symbol, maybe something like a Chinese gong. Yeah, a few notes of music if you wanna, you can sing along. Tattoo, a bramble vine that weaves and twines and twines and weaves up under my sleeve. A token that will be the glorious part of me. For the courage and serenity that nobody else will see. Only a lover who gets close to me. Her ear. Well, she just took out a needle and thread, and she poked a little hole in her head. It's still kind of puffy and red. Well, I like the way it looks, she said. Now with a little golden chain, she can't connect her eyebrow to her ear. A statement so plain and simple, but will last for years. Lady got her eyebrow pierced. Carla's Got a New Tattoo. E finisce così, bruscamente, così come era iniziata questa canzone di 4 minuti e rotti. Canzone di apertura tratta dal suo ultimo disco che sì, ancora in Italia non si è ascoltato, magari qualche appassionato, qualche veramente sfegatato del bluegrass e del newgrass se l'è fatto già arrivare, è riuscito per via traversa a farselo arrivare, ma certamente escludo assolutamente che sia stato trasmesso da chi che sia questo disco, che è veramente bellissimo. È il nuovo disco della John Cowan Band, New Tattoo, e la canzone era Carla's Got a New Tattoo. E sottolineiamo i nomi dei componenti della band, perché sono, avete sentito, veramente favolosi. Jeff Autry era il chitarrista, Wayne Benson al mandolino, vecchia conoscenza degli appassionati del bluegrass moderno, Luke Bala al violino, Shad Cobb al violino pure lui, John Cowan al basso elettrico, Noan Packley, un giovane banjoista che si è fatto notare già da qualche tempo e che naturalmente John Cowan non si è lasciato sfuggire. E che dire, questa è musica newgrass, musica bluegrass, ma davvero nuova nell'approccio, quindi non è il traditional bluegrass, quello di Bill Monroe, Fred and Scruggs, è quello che molti appassionati ogni tanto mi chiedono di trasmettere dalle frequenze di Rock FM durante Country Skyline. E diciamolo, Country Skyline è un po' che non lo ricordo, è la trasmissione che va in onda il martedì ma anche il venerdì dalle 23 alle 24 dalle frequenze di Rock FM. Maurizio Faulisi al microfono, che prima di tutto vuole ringraziare coloro che si sono già messi in contatto nonostante io non abbia dato neanche una volta, oh che vergogna, questa sera il numero di SMS, che è il 338-6171-300 338-6171-300 e l'email maurizio@radiorockfm.com. A parte i saluti, c'è un messaggio, c'è qualcuno che richiede una canzone tratto dall'ultimo disco bellissimo di Alan Jackson. Naturalmente sa Gabri di sfondare una porta aperta con Alan Jackson, perché è uno dei miei preferiti, ma non ho ancora messo le mani sull'ultimo disco di Alan Jackson, non temere, non vi farò attendere a lungo. Si parlava di newgrass, si parlava di musica bluegrass fortemente influenzata dal rock, dico bene? Ecco, sentite questa la conoscete, anzi vi dirò di più, chi mi dice il titolo, anzi chi me lo manda per SMS 338-6171-300 338-6171-300 in regalo un CD. Pretendevo tanto. Hey Joe. Di Jimi Hendrix. Qui mi è stato addirittura segnalato. Cantata da Tim O'Brien, è vero, è vero. Hai vinto, manda il tuo indirizzo per SMS, ancora lo stesso numero 338-6171-300. Tu che hai il numero 192, numero conclusivo, gli ultimi numeri del tuo cellulare, e ti vedrai arrivare a casa un CD da Country Skyline. Hey Joe, tell me now, where are you gonna go? Hey Joe dalla bella voce di Tim O'Brien. Your cheating heart, genius. The Genius, l'abbiamo ascoltato con Your Cheating Heart, un classico della country music che anche lui ha voluto riprendere una volta lasciata la Atlantic Records, dove ha, per la quale ha inciso tanto rhythm and blues, tanto un po' di jazz, qualcosa di jazz. E insomma la sua musica fortemente influenzata dalla gospel. Ecco, poi passò alla ABC Records, dove andò a incidere delle canzoni che lui insistette per poterle incidere, perché alla ABC non erano dell'idea di far incidere country music da un nero. Beh, questi dischi ne incise due di album nei primi anni 60, mi pare il 1963. Ecco, quei dischi hanno venduto milioni e milioni di copie. Ma da parte di Ray Charles, che comunque aveva in ogni caso un buon fiuto, la volontà non era quella di un'operazione commerciale. Lui amava la country music, ascoltava la Grand Ole Opry quando era un ragazzo. In tanti del mondo della soul music e del rhythm and blues, molti neri amano la country music e particolarmente nel soul degli anni 50 e ancora di più anni 60 si ascolta fortemente l'influenza country in molti cantanti appunto di colore, come per esempio Ivory Joe Hunter. Since I met you, baby, my whole life has changed. Since I met you, baby, my whole life has changed. And everybody tells me that I am not the same. Davvero è decisamente country. 1957, Ivory Joe Hunter, lo abbiamo ascoltato con Since I Met You Baby. E che dire di William Bell, Stax Records, 1961, You Don't Miss Your Water. William Bell, You Don't Miss Your Water. E giusto per chiudere in bellezza la parentesi dedicata ai grandi del soul che amavano eseguire country music, e beh, non poteva mancare, ladies and gentlemen, il re. That runs away from me, dreams that just won't let me be, that keeps on bothering me. Chains that just won't set me free. Too far away from you and all your charms. Just out of reach of my two empty arms, as Solomon Burke. Each night in dreams, I see your face. Memories time cannot erase. Then I awake and find you're gone. Then I'm so blue and all alone, so far away from you, so sweet and warm. Not be mine. Dreams that hurt me in my sleep. Vows that we could never, never keep. So far away from you. Eh sì, 1960, Just Out of Reach of My Two Empty Arms, era davvero il re del soul del suo periodo, del country soul, diciamolo. Questo era Solomon Burke. Indietro al bluegrass, e il bluegrass state è il Kentucky, e questa canzone si intitola Take Me Back to Kentucky, Lauren Jordan and Carolina Road. Take me back. Take me back to Kentucky. When I die, let them know where I'm gonna go. Take me back to Kentucky. From my home. Now there bravissimo, è così che chiudiamo la trasmissione questa sera con Lauren Jordan e Carolina Road. Ma stasera abbiamo spaziato alla grande, davvero, dal pop al Nashville Sound, dal new country alla soul music, la country soul dei primi anni 60, al bluegrass, al newgrass, insomma davvero davvero di tutti, di tutto un po', volevo dire. Ecco, spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento, ho cercato di bilanciare acustico e elettrico, nuovo e vecchio, progressivo e tradizionale. Noi ci risentiamo venerdì alle 23 per quanto riguarda la country music e la roots music da Rock FM. Domani sera potrete ascoltare invece la trasmissione Garage Land Rock and Roll, Rock and Roll, con il Matthews e ancora il Faulisi, che mandano in onda Garage Surf e Punk and Roll, e poi il giovedì con replica, e anche il lunedì Good Rockin' Tonight, Rock and Roll anni 40 e 50. Ringrazio davvero di cuore tutti quelli che hanno scritto, in tanti anche questa sera, al 338-6171-300 per salutarmi, per dirmi che se hanno vinto o perso a calcio, se hanno bevuto o poco o tanto, e se amano il bluegrass tradizionale progressivo. C'è chi ha chiesto Alan Jackson, c'è chi ha chiesto qualcos'altro. Ecco, se mi volete scrivere durante la settimana, io sono in grado di rispondervi naturalmente, ma fatelo non via SMS ovviamente, ma via email maurizio@radiorockfm.com. e con questo credo davvero davvero davvero di aver finito. Ci sentiamo presto su Rock FM.